Ben trovati a una puntata di Lovelace. Ero un po' incerta su che puntata di cosa. No, e siamo tantissime e tantissime in regia oggi nella Wombat regia. Io non sento assolutamente niente in cuffia, ma benvenuti a Slick Cheek. Vado a intuizione. No, no, ma non sei te, è proprio a prescindere, ma vado a intuizione. E oggi puntata di Lovelace, che chiaramente prende un po' lo spunto dalla cronaca di questi ultimi giorni, triste cronaca direi oggettivamente, non è che proprio sia una meraviglia, e però anche del, cioè, diciamo, la cronaca più ovvia, ovvero la guerra in Ucraina, quindi tutto quello che sta succedendo da quelle parti, ma anche alcune dichiarazioni particolarmente grottesche che invece riguardano, insomma, sono abbastanza legate, però diciamo che riguardano invece un po' più le nostre lande locali, la Toscana e i territori che ci insomma, su cui abitiamo quotidianamente. Abbiamo qui in regia, nella Wombat regia, appunto diversi di FDU, dell'E-Club, Wombati e Wombatesse. Proviamo se vi si sente. Ciao a tutti. Sì, ci si sente. Benvenuti a Slick Cheek. Non è vero, non confondere i nostri. Non è vero, benvenuti a loro dei Balcani. Per una nuova puntata di Poi You Eat, su Radio Bomb. Siamo in tanti, che bello essere con voi oggi. Sì, è vero, mi avete sgamato che stavo per dire benvenuti a Slick Cheek, lo stavo proprio dicendo, lo dico sempre, vabbè. D'altra parte ricordiamo che Lovelace va in onda un giovedì su due alle 21 e l'altro giovedì c'è invece Slick Cheek, quindi insomma la, come dire, la mia... Ci sta. Sì, dai, cioè si poteva, era giustificata la mia confusione. E dicevamo, quindi entriamo un attimo nel vivo di questa puntata, più che altro introduciamo un po' quello di cui parleremo oggi. Quello di cui parleremo oggi è un po' la guerra per le materie prime, ovvero le materie prime, più che altro l'energia, diciamo le materie collegate all'energia e quanto queste materie prime sono influenti ovviamente sulla nostra vita, lo vedremo, cioè quotidianamente, lo diciamo spesso anche a Lovelace, l'abbiamo ridetto e ripetuto più volte, ma anche negli equilibri geopolitici, nel lo scacchiere internazionale, come direbbe quelli, quelli che ne sanno. E quindi partiamo intanto da le questioni generiche della crisi che potremmo genericamente definire una crisi energetica, che insomma sulla bocca ormai di tutti, anche perché lo stiamo sperimentando anche nelle bollette e quando andiamo a pagare la benzina, insomma ce ne rendiamo conto. Per ora direi che è crisi di soldi più che crisi energetica. Sì, esatto, perché per ora stiamo continuando a pagare, perché con quei pochi soldi che ci sono avanzati li continuiamo a pagare. Tra un po' sarà che l'energia non c'è perché non glieli diamo i soldi, perché non ce l'abbiamo. E poi appunto parleremo, ci stiamo facendo aiutare qui da appunto vari vombati, varie voci che ormai alcune autorevoli. Sì, autorevolissime, che alcuni di voi riconosceranno, che hanno un po' da dire cose, in particolare il Bontuco ci aiuterà come appunto eco dall'urlo dei Balcani, ci aiuterà un po' a dipanare un po' tutta quella matassa che per noi è abbastanza un gran casino, penso non solo per noi oggettivamente, ma per noi in particolare è un gran casino, e tu ci aiuterai un pochino a dipanare questa matassa di quello che succede da quelle parti. E poi oltre un pochino appunto entrare nel dettaglio di questa che viene definita crisi energetica, faremo anche degli esempi su quello che invece sta forse dall'altra parte della barricata, ma poi vedremo non è niente affatto dall'altra parte della barricata, che è la cosiddetta transizione ecologica, cioè quelli che vengono un po', chiaramente non abbiamo il tempo in una sola puntata per parlare effettivamente in maniera esaustiva della transizione ecologica in toto, né delle soluzioni che si sono pensati, né di quelle che noi penseremo essere più efficienti, non ci abbiamo il tempo, però parleremo di un esempio che è quello dell'energia eolica, delle tecnologie legate alla produzione di energia eolica, per cercare un po' di togliere il green da quello che viene definito green, ovvero cercare di un po' smitizzare quella che viene definita energia pulita e che viene un po' rivenduta come panacea di tutti i mali, e appunto l'energia buona, pulita, perfetta, che ci salverà anche da eventuali future crisi e guerre. Vorrei dire che un punto di partenza potrebbe essere che la transizione ecologica in realtà è il frutto della guerra alla ricerca dell'energia, no? Cioè il punto degli stati è ricercare per il futuro energia e essere autosufficienti. La transizione ecologica rientra in questa guerra, in questa ricerca dell'energia, e dunque rientra nel capitale, nelle speculazioni e quindi anche nel nascondere quello che dicevi tu. Esatto. E si vede che c'è gente che ha studiato, perché io invece volevo dire solo che l'unica energia buona è l'energia morta. L'energia perpetua. L'energia mortalmente perpetua. Sì, esatto. No, scusate, nel frattempo infatti mi stavo buttando di faccia sulla cassa per evitare questi feedback, perché poi rientrano. Però sì, infatti questa crisi energetica, quindi entriamo un po' nel dettaglio anche, cioè perché di base, senza volere entrare troppo nella questione ucraina, perché non cioè, a parte ci vorrebbero 16 puntate dell'urlo dei Balcani e figuriamoci Lovelace e tutto il resto. Esatto, però è evidente che c'è un nesso, è evidente che appunto la battaglia per il reperimento delle energie e per le materie prime è abbastanza un punto nodale. In realtà si parte da ben prima, cioè nel senso, questo chiaramente è uno degli ultimi eventi, è l'ultima cosa che stiamo notando, però insomma di base basta ascoltare l'urlo dei Balcani, in realtà tu che c'è la palla di vetro ti eri accorto ben prima che c'erano dei problemini da quelle parti. Assolutamente, poi non solo nei Balcani, infatti l'Unione dei Balcani si è dovuto trasformare in qualcosa più geopolitico, proprio perché poi non si può più parlare di un singolo posto, di una singola area geografica, ma è tutto collegato, proprio come i gasdotti che collegano tutto il mondo. L'energia appunto è alla base degli scambi, della politica, della geopolitica, degli accordi commerciali che fanno parte a pieno titolo della crisi energetica, no? Poi anche questo aspetto. Quindi scusami, per tornare alla tua domanda, qual è? Cioè, un focus su... C'hai ragione, era un po' generica. Cioè, vorremmo che tu ci trasferissi tutto il tuo sapere, fondamentalmente, sì. Però condensandolo... Dandolo per vero, perché vabbè. Certo, ovviamente noi pendiamo dalle tue labbra, assolutamente. E dovresti trasferirci tutto il tuo sapere in circa mezz'ora, ecco. Vabbè, allora... No. Beh, per quanto mi riguarda, in questo momento sei la fonte più attendibile italiana. Lo capisco, perché effettivamente siamo in pessime mani dal punto di vista dell'informazione. Come dico sempre anche nella mia trasmissione, è difficile trovare informazioni e anche quando le si trova bisogna sempre prendere con fare critico. Anche se lo scrive il manifesto, anche se lo scrive il compagno, chiunque sia, bisogna contestualizzare, leggere più fonti. Diciamo e partiamo dai punti di partenza. Si parte dalla guerra al procacciamento dell'energia per il futuro. Perché? Il petrolio, che è stata di gran lunga la maggiore fonte di energia per tutti noi, si sapeva già che stava finendo, mo ci siamo, sta finendo. Allora, dobbiamo, gli stati, per poter continuare nel, ricordiamoci, comunque un mondo a stragrande maggioranza di sistema capitalistico, e quindi deve produrre, non solo riscaldare le case dei cittadini, che è importante, però soprattutto deve produrre, perché poi i grandi accordi che vengono fatti sono per questo, per le grandi aziende. E infatti quando ci sono intoppi tendenzialmente ci rimettono noi che paghiamo appunto questi sovrapprezzi, e non tanto chi poi invece produce l'energia. Vi posso fare più tardi, se volete, anche una sorta di excursus su come funziona la nostra bolletta, cioè dove sono i costi delle bollette energetiche, che quindi non arrivano solo dal gas, hanno plurime, però si parla tendenzialmente ad ora un 60% arriva dal gas e poi il resto da energie, diciamo, rinnovabili, all'interno delle quali c'entra anche l'idroelettrico, che quindi non è tutto rinnovabile. Sì, certo c'è l'acqua, ma non tutto l'idroelettrico, non c'è solo un'acqua che scende, lo sappiamo, ma si usa anche del petrolio, per esempio, per ora, no? In questi posti. E poi tutto invece eolico, ma quello ne parliamo successivamente. Comunque, nella ricerca, all'interno di questa ricerca di procacciarsi energie per il futuro, abbiamo appunto il gas, che è la fonte principale. Perché? Perché è quello più abbondante, facile da prelevare tendenzialmente, se si continua a trovare. Cioè la Turchia ha trovato un giacimento nel Mar Nero enorme, per cui Erdogan si è proprio tutto gli è preso benissimo. Fibrillato perché gli sta andando malissimo in Turchia. Almeno una buona. E quindi quella era buona. Infatti la crisi energetica, per esempio, in Turchia hanno avuto problemi con dal Kazakistan, che loro ricevono molto gas da là. C'è stato un guasto, ne ho parlato nell'Unione dei Balcani, c'è stato un guasto e la Turchia è rimasta senza gas. Cioè, non è rimasta senza gas, diminuisce l'arrivo del gas. E quindi hanno dovuto proprio fare le turnazioni all'interno delle industrie. Questo perché l'unica cosa positiva che può aver fatto Erdogan per tutelare per riscaldare le case, le industrie hanno fatto la turnazione. Però tendenzialmente non succede questo. Tendenzialmente succede che l'utente paga di più e l'industria invece riceve sanzioni dallo Stato. Ed è privilegiata comunque l'industria, perché di assolutamente base anche soprattutto da noi in Italia, dove Confindustria governa, e quindi... No, poi devo dire, effettivamente dobbiamo produrre paperelle di gomma e quindi sono essenziali, cioè non possiamo fermare l'industria, che poi non puoi mettere una vasca da bagno riscaldata, perché tanto non c'è come riscaldarla, quindi vabbè. Acqua fredda. Sì. Comunque, allora, diciamo questo. C'è una vasta rete di tubature, di pipeline di gas e di petrolio, ma insomma principalmente di gas in giro per il mondo. Non ci sono solo quelle che vengono verso di noi, chiaramente, ma si spandono tendenzialmente in tutto il mondo. Principalmente partono dall'Asia e vanno nei vari posti. Non partono dagli Stati Uniti d'America, perché in mezzo ci sono degli oceani, e quindi loro, come sappiamo, sono costretti a liquefare il gas e mandarcelo via nave. Ne hanno tantissimo, tra l'altro. Ci hanno investito miliardi e miliardi gli Stati Uniti negli ultimi decenni. Non sanno a chi venderlo, però. Ma quello... anche perché, tu, se non sbaglio, si sono accorti a un certo punto di avercene esatto. tanto. Stavano per diventare importatori, avevano impiantato già degli impianti sulla costa atlantica per importare esatto. gas. Poi hanno scoperto il fracking, che erano pronti, se non dico male. No, no, è giustissimo. Solo che gli accordi con il Sud America non vanno più tanto bene, cioè gli Stati Uniti stanno perdendo presa nel Sud America e quello più vicino sarebbe la Russia, ma ce n'ha più di loro, quindi non glielo possono vendere. E qui ci sarebbe tutto un capitolo da aprire, cioè questo concetto qua del poter vendere e fare soldi del gas statunitense, quanto è entrato in questa crisi, quanto conta in questa crisi? Moltissimo, però non è argomento di questa puntata. Diciamo che... allora, aspetta, mi ritrovo il punto che l'ho superato, che ci dice un po' quali sono i gasdotti principali su cui abbiamo investito, appunto. Allora. Europei ce li presenti? Europei, europei. Cioè, che arrivano in Europa, che arrivano in Europa. Sì, perché chiaramente è evidente che questa è una crisi che riguarda il mondo tutto, però in particolare in questo momento, non perché siamo eurocentrici, ma perché c'è un evidente conflitto sul territorio europeo e quindi magari parleremo più di questo, però poi vedremo partendo da questo come in realtà vengono coinvolti paesi che in Europa non sono e che di base, spesso succede, sono visti come colonie e grandi cave e miniere di materie prime e quindi poi si andrà oltre anche l'Europa, però per ora ci fermiamo qui. Cioè, esatto. Di base appunto una cosa che secondo me non abbiamo detto perché la riteniamo un po' magari scontata, però è bene secondo me puntualizzarla, è come la maggior parte, forse tutte direi, le guerre alla fine non è che si fanno per questioni realmente etniche o per questioni di linguaggio, di popolazioni, di divisioni. Alla fine si fanno per i soldi, per gli interessi economici e quindi è per questo che noi abbiamo poi alla fine deciso di parlare di questo e stiamo approfondendo questo discorso principalmente sull'Europa e sulla Russia, perché appunto è estendibile a tutto il mondo, ovviamente. Certo. Anche perché poi ne parliamo, anche perché questa cosa che dici sono d'accordissimo, ma oltretutto fa anche capire quanto il nostro, insomma, la nostra, posto che i governi stanno al di sopra di tutto e decidono sopra le nostre teste generalmente, però quanto poi, lo vedremo, i consumi nostri singoli poi in realtà hanno un certo peso su quello che poi, o perlomeno se non i nostri consumi singoli del nostro radiatore, però in generale i consumi del nostro stile di vita, del nostro apparato economico, insomma, poi influiscono su tutti questi. Sì, e la capacità di comprare, nel senso che comunque l'Europa è un posto ricco e quindi ti puoi permettere di vendere a dei prezzi e a tenere alto il prezzo della materia prima proprio perché la vendi in posti ricchi. E poi paradossalmente nel mercato più c'è richiesta più sale il prezzo dal punto di vista energetico. Conta molto quindi chi te lo compra e quanta richiesta c'è. Più richiesta c'è, perché magari arriva meno da altre parti, più sale il prezzo. L'ho scoperto da poco questa cosa, perché non è intuitiva sinceramente, no. Cioè più c'è richiesta meno costerà, certo. No, sembra essere il contrario. Mm-hmm. Questo lo dice in questo articolo, se poi volete andare è ilbolive.unipd.it e l'articolo si chiama "Bollette più care, quali sono le cause del rincaro" e spiega punto per punto come tendenzialmente funziona. Ribadisco, prendere con le pinze, però è, direi, piuttosto scritto bene. Allora, diciamo una cosa importante. Da noi il gas arriva principalmente dal famoso Nord Stream 1, il gasdotto che passa dall'Ucraina. Quella è la principale fonte di gas, non l'unica. L'Europa, già vedendo, perché l'Ucraina e la Russia discutono già da tempo, ok? Non da ora, ma neanche dalla crisi col Donbass. Precedentemente, quindi l'Europa da tempo si sta mettendo a cercare di nuove fonti di gasdotti. Allora, infatti abbiamo finanziato la costruzione di gasdotti che ci collegano ai paesi meridionali, al Nord Africa. Stiamo parlando principalmente delle condutture che passano sotto il Mediterraneo e sono denominate Green Stream e Transmed. Ci sono poi due gasdotti che raggiungono la Spagna, che quindi non riguardano l'Italia, però comunque riguardano l'Europa, che sono il Medgaz e il Maghreb. Ora, questi gasdotti non pompano tanto gas quanto viene pompato dalla Russia o da quegli altri che poi ora vi dico. E poi sono instabili, cioè il Nord Africa è instabile, cioè il gas della Libia, che pure ci sarebbe, non lo puoi controllare, non puoi sapere se arriverà. Se ne parlava prima, una cosa importante è che la fornitura sia costante. Certo. Una cosa fondamentale. E che tu lo possa controllare, sì. Infatti c'è una missione di Di Maio, che se non sbaglio ha fatto ieri o ieri l'altro, proprio in Tunisia, perché per l'appunto la Tunisia recentemente sta pompando fortemente gas. Sì, sì, l'ha raddoppiato. L'ha raddoppiato proprio. E non è comunque sufficiente per i mercati europei. Che quando sento dire Di Maio mi viene da ridere, mi scatta la risata dietro. Scusate, non volevo. Non vorrei dire, ma in ogni puntata di Lovelace si cita Di Maio. Questa cosa qua sta diventando preoccupante. Allora, l'obiettivo dell'Europa è creare delle infrastrutture che possano porre appunto fine a questo isolamento energetico. Quindi si sta lavorando su tutti questi altri fronti. I corridoi in questione sono l'NSI West Gas, l'NSI East Gas e il BEMIP Gas. Il primo, cioè il NSI West Gas, ha lo scopo di aumentare la fornitura verso i paesi dell'Europa occidentale. Quindi chi interessano? Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito. Questo è, quindi è un corridoio che si sta creando. Ancora non è un corridoio privilegiato nell'arrivo del gas, però dobbiamo tenere conto dell'esistenza appunto di questo. Poi c'è l'NSI East, quello era il West Gas, chiaramente. Sì. L'East Gas invece riguarda l'Europa orientale, e in particolare i nuovi gasdotti che passano dal Mar Baltico, dal Mar Adriatico, l'Egeo, Mediterraneo orientale e Mar Nero, e che quindi coinvolge gli altri, Austria, Bulgaria, Croazia, insomma non sto a dirvi, Repubblica Ceca, Germania. Il BEMIP Gas invece è un collegamento tra gli stati baltici e la Finlandia, che crea una rete di gas che arriva nell'Unione Europea, e questo c'è già. Ok. Poi c'era il Nord Stream 2, che è stato bloccato definitivamente, è stata la prima scintilla di scossa fra Stati Uniti e Russia, quello è stato bloccato, non c'era più, che sarebbe servito. Era pronto, vero? Pronto, pronto. Mancavano solo le... come si dice... le licenze. Bravo, sì, le licenze. Cioè, quindi è stato costruito, è stato bloccato proprio all'inizio dell'utilizzo. Sì, sì. E avrebbe avuto il merito, fra virgolette, insomma, di non far passare il gas dai paesi dell'est, dal cosiddetto blocco, sì, di Visegrad, che sono tutti paesi filo NATO, esclusa la Bielorussia, insomma. E sì, quindi questo arriva direttamente in Germania dalla Russia, anche per questo, insomma. Esatto. Esatto, passava da sopra e quindi non passi in mezzo all'Ucraina. Però in realtà anche il Nord Stream passa da lì. Cioè il Nord Stream e il Nord Stream 2 sono accanto. No, il Nord Stream 1 passa nel mezzo dell'Ucraina, il Nord Stream 2 passa nel mare. Dovrebbe essere lo Yamal. No. Allora non inizierà a mettere in discussione il nostro Nord Stream, la nostra fonte di informazioni. Perché sono raddoppiato. Cioè noi abbiamo un guru, cioè ora arriva lui, capito? No. Ma perché quello, guarda, che passa nel mare passa nelle acque territoriali, e quell'altro è fuori bordo, e quindi può darsi, eh. No, io sapevo erano uno parallelo all'altro, però non so. Allora, parliamo di una cosa che ci interessa, ne abbiamo parlato, il TAP. Ah, il TAP. Più con vicino. Questo bel nome. Esatto, il TAP, probabilmente molti di noi hanno partecipato magari anche alle proteste contro il TAP. In realtà il TAP sta già pompando gas, ok? Che è stato ultimato alla fine del 2020. Da dove passa? Come fa? Dove sta? Aspetta, allora... precisamente... Non ti volevo mettere in crisi. Secondo me arriva dall'Azerbaigian. Sì, sì, sì. Cioè poi il gas, chissà che giri fa, ma... Il gas è quello che arriva dall'assù. Azerbaigian, probabilmente anche quello del Kazakistan. Perché, insomma, voi dovete immaginarvi una rete, eh? Cioè una rete di collegamento. Non sono... poi chiaramente, se uno è a nord e uno eccessivamente a sud, non si collegano. Però tendenzialmente sono rete di pipeline. A seconda di chi ci pompa dentro e in quale stato passa, ci sono... certi tipi di costi, certi tipi di gas. Infatti dicevamo che molto probabilmente il gas russo non è che non arriverà, a parte sta continuando ad arrivare anche dal Nord Stream 1, ma non è che non smetteranno di vendercelo, ma probabilmente ce lo venderà Erdogan attraverso appunto per esempio il TAP o tutta quella parte dei gasdotti che arriva dall'Azerbaigian, Kazakistan, passa vicino alla Turchia, Grecia e poi arriva da noi, oppure mare, insomma a seconda di che posto. Il TAP da gennaio a ottobre scorso ha pompato 5,6 miliardi di metri cubi di gas naturale, quindi non pochissimo comunque, quindi già funziona, e vogliono aumentarlo, però non sarà sufficiente. No, a me, se posso, su questo mi colpisce parecchio la doppia morale tra virgolette, doppia morale insomma degli industriali italiani che erano in prima linea dietro alla Francia e alla NATO a fare guerra alla Libia, e oggi non piangono per quel gas che non sta più arrivando, festeggiano la Tunisia che intanto pompa, si rammaricano per l'instabilità libica e fa arrivare poco gas da quel e viceversa invece stanno festeggiando insomma il TAP e il fatto che ci sia la possibilità addirittura di aumentare la portata del TAP, spregiando gli ambientalisti e tutti quelli che battagliavano per gli ulivi pipì. È un po' questa la retorica che stanno adoperando oggi. Come sempre però parlano di un argomento tacendone un altro. Certo. Un altro progetto a cui sta lavorando l'Unione Europea, che se ne parla poco per esempio, invece è il gasdotto dell'EastMed, che collega la rete europea ai giacimenti offshore che sono stati scoperti fra Cipro, Egitto e Israele. Perché in quella zona c'è un sacco di gas, anche proprio nel mare fra Cipro e Grecia. Punto di tensione fra Turchia e Grecia è proprio il reperimento, quindi torna questa guerra alla ricerca dell'energia. Il punto è sempre quello, per esempio fra Turchia e Grecia non è chi detiene il possesso del mare, ma chi detiene la zona dove c'è il gas. Certo, lo vedremo, tra l'altro lì è anche una zona dove non per niente si sta decidendo di costruire grandi parchi eolici, giusto per anticipare quello che poi diremo dopo. Ah, esatto, sì. Pensavo. non volevo fare troppo spoiler. No, io scusa. No, concludo questa cosina e ti lascio. L'ISMED è previsto nella costruzione, la fine della costruzione per il 2027, quindi non manca tanto. È già stata avviata sulle procedure, quindi vediamo che sì, questa guerra, c'è la crisi energetica, ma non è un fulmine a ciel sereno, cioè l'Europa già si stava muovendo proprio in questa procacciarsi l'energia. Lo stesso vale anche per un altro gasdotto che ancora non c'è, che si attaccherà all'EastMed, che si chiamerà Poseidon. Bello, Foga. Poseidon. Che arriverà dalla Grecia all'Italia. L'ultimo tratto sarà sì, Grecia, e arriverà sempre lì in Puglia. La Puglia comunque è l'arrivo dei gasdotti del sud. In generale. Sfiga, gli dice sfiga. Il gas russo appunto arriva in Europa anche attraverso tre gasdotti importanti, appunto non solo il Nord Stream 1, ma c'è anche il Turk Stream e il Blue Stream. Sono altri due pipeline di cui non si parla sui giornali, ma che sono pipeline che pompano gas russo in Europa. Fondamentalmente il Turk Stream e il Blue Stream passano attraverso il Mar Nero, arrivano in Europa tramite la Turchia. E mentre vabbè, il nostro immune è su, lo sappiamo dov'è. Io metterei un po' di musica, un pezzo musicale, così prendiamo respiro per un attimo e poi continuiamo subito su questa china, ecco. It's like you. Eccoci in studio nella Wombat regia. Wombat, radiowombat.net, il sito della radio che mi dimentico sempre di ricordarvi, e posta wombat in siberia.net, chiocciola in siberia.net invece la casella di posta alla quale potete scriverci, e il pad diretta wombat.vado.li, che però oggi è inutile che lo guardate perché non siamo in diretta. Vi sveliamo questo trucco: non siamo in diretta, e quindi in realtà se andate sul il pad della diretta normalmente ci trovereste lì belli solerti a chiacchierare con voi, questa volta no, però insomma di base lo potete utilizzare per chiacchierare con noi Wombat mentre trasmettiamo. Quindi siamo in conclusione, diciamo, di, ecco, questa panorama, anche perché poi si rompe il cazzo. no invece solo nomi. Allora puntualizziamo una cosa che abbiamo ora, mentre c'era il pezzo, abbiamo sviscerato, ossia Nord Stream 1 e Nord Stream 2 sono quasi paralleli, sono paralleli praticamente, non passano attraverso l'Ucraina, proprio paese, territorio fermo, ma ci sono appunto altri due gasdotti, appunto lo Yamal Pipeline e il Brotherhood Pipeline, no scusate, il Soyuz Pipeline e il Brotherhood Pipeline, mentre quell'altro che ho detto già mi sono scordato, il com'è che l'ho chiamato? Lo Yamal invece passa dalla Bielorussia. Quindi, insomma, il gas da noi dove ci arriva? Ci arriva dalla Russia, dalla Norvegia, che è l'altro produttore per il 16% di gas per l'Europa, e poi ci arriva dall'Asia, di Kazakistan e Azerbaigian. Ed infine poi un po' ci arriva appunto dal Nord Africa, non sufficiente. L'ultima cosa da dire, ci potrebbe arrivare anche, e sarebbe da un certo punto di vista conveniente, vedremo un po' se come si evolverà, dall'Iran, che però ad ora continua ad essere bloccato. Una parte ci arriva anche via nave, sì, con liquefatto, che tra l'altro un po' dal Qatar, sì, su cui gli Stati Uniti in questo momento stanno spingendo per spostare il loro traffico non più verso l'Oriente ma verso noi, quindi verso l'Europa. Sì. E appunto gli statunitoni, avendo le manone lunghe lunghe lunghe, poi sul Qatar, insomma, fanno l'altro, un po'... l'altro paese che ci manda tra l'altro il gas tramite nave è il Giappone, per esempio, che ha tanto gas anche lui, che ce l'ha mandato a, a poco prezzo per solidarietà, ma diciamo che così. Apre il mercato europeo, che è dietro l'angolo il Giappone, eh? In esatto. effetti sì. Quindi sì, no, vabbè, questa diciamo è la panoramica fondamentalmente da dove ci arriva il gas. Non è tutta l'energia però quella che ci serve come, come infrastruttura Italia, diciamo, infrastruttura Europa. Ma tra l'altro la, la cosa che in maniera proprio così bovina mi veniva da chiedere, perché chiaramente adesso si sta facendo un gran parlare di questa questione, ma il gas ne avevamo bisogno anche prima, cioè cosa sta succedendo? Ce n'è di meno oppure semplicemente ne abbiamo bisogno noi di più, in maniera proprio grezza? Ma allora, o entrambe. Aumenta il consumo. Il consumo è assolutamente aumentato. La, la diminuzione del consumo durante il lockdown, che paradossalmente è diminuito perché appunto le grandi industrie, che sono quelle che lo usano, avevano diminuito la produzione. Poi c'è stato infatti la, la Cina, che è stata la prima a ripartire, è stata la prima poi a, a fare anche nuovi accordi su, su questo, e ha preceduto tanti altri paesi. Quindi è aumentata la, la, la necessità, come si dice, la, la richiesta. La richiesta, sì. Assolutamente. E appunto, come dicevamo, paradossalmente l'aumento di richiesta fa aumentare anche il prezzo. In più, la, la, l'instabilità dei vari paesi che fa, a cui, attraverso i quali passano le pipeline, rendono variabile il costo. Questa è una costante che troveremo anche nelle altre materie prime di cui parleremo esatto. oggi, perché effettivamente questa questione che quando una materia viene richiesta di più il suo prezzo aumenta è un qualcosa che ha senso, sembrerebbe strano, però effettivamente è proprio quello che succede, e succede su tutte le materie prime, specialmente quelle che a un certo punto, di punto in bianco o perlomeno rapidamente, diventano molto molto molto richieste. Cioè non in una maniera magari graduale, ma che di colpo entrano nel, in scena. Lo vedremo, alcuni minerali, metalli, comunque materie prime legate alla tecnologia, motivo per cui poi parliamo spesso di queste materie prime, è anche perché appunto essendo Lovelace una trasmissione legata all'E-Club Fiorentino ci interessa anche questo aspetto direttamente. Queste materie prime a un certo punto, non proprio di punto in bianco, ma insomma, hanno una spinta e un'accelerata enorme. E c'è un mercato pompato, e quindi a un certo punto questo tipo di materie prime di punto in bianco viene richiesto tantissimo. Questo fa sì che chiaramente si genera anche una bolla, potremmo dire, però se non arrivando alla bolla, comunque si arriva a... insomma alla spinta anche, cioè si capisce che chi ha queste materie prime inizia a dire va bene, ok, allora ci posso lucrare, cioè ci posso fare molti più soldi, ed è bene anche che lo faccia ora, perché chissà magari tra 10 anni che succede. Questo sta succedendo, poi lo vediamo anche con le questioni appunto del fotovoltaico, dell'energia rinnovabile, per cui di punto in bianco l'abbiamo visto. Non c'entra proprio direttamente con le materie prime, però la questione bonus 110 in Italia, i ponteggi diventano di punto in bianco un bene incredibilmente richiesto, i prezzi dei ponteggi crescono in maniera incredibile, e così chiaramente tra questo nel piccolo, nel grande, immaginiamoci. Certo. Tra l'altro una cosa un po' buffa è che su questo discorso delle materie prime, allora, l'Italia in realtà è uno dei pochi posti d'Europa che, su cui abbiamo dei siti di stoccaggio. I siti di stoccaggio sono dei vecchi giacimenti di gas da cui è stato estratto il gas e cui viene ripompato il gas e viene tenuto lì. Di solito si compra d'estate, si mette lì perché d'inverno sale il prezzo del gas. E quindi abbiamo una specie di ammortizzatore. Ora, in realtà questa roba è un vera fino a un certo punto, nel senso che se il prezzo in borsa delle materie prime sale, quando tu lo rivendi comunque al prezzo di... Quindi l'hai comprato a meno, lo rivendi a più e ci hai lucrato. Non è che siccome l'hai stoccato, lo rivendi a meno a per il prima. Perché esatto, no, perché vuoi bene alla tua popolazione. Cioè, no? Infatti, cioè, semplicemente, cioè, ora le ultime bollette. Io non so se voi vi sono arrivate alle ultime bollette del gas. Sto cercando di non guardarla. Vabbè, è arrivata ieri. Ho iniziato a piangere. Ma di là di questa cosa qua. Noi paghiamo alla fine il prezzo del gas attuale. Però esatto, tu quando esatto. l'hai usato costava meno. Ah, certo. Esatto. No? Sì. Era per. Sì, sì. È vero, anche questo in effetti non ci avevo pensato. È molto bello. E tra l'altro, io, a me non mi è arrivato il gas, però mi è arrivata la luce. Che devo dire che anche quella si è aumentata. Ma a me è arrivata una bolletta di 400 euro. Madonna. 400 euro. Infatti, pallet di noodle, quelli istantanei, già mi è arrivato a me. Ho preso direttamente le calorie. Ci scaldi casa anche. Dio mio. Eh sì, eh sì, appunto, poi in realtà vedremo questa cosa e appunto, siccome è alla base di tutti i discorsi che facciamo oggi, alla base di tutti i discorsi che stanno dietro all'energia e alle, appunto il modo con cui riusciamo a ricavare energia, cioè, non è che invece nelle energie rinnovabili non c'è, cioè proprio è identico, quindi così come stiamo facendo questo discorso per il gas e questo discorso l'abbiamo fatto e lo facciamo per il petrolio, per esempio, lo possiamo fare paro paro con tutte quelle energie, quelle fonti energetiche che vengono definite green e che però non si sottraggono assolutamente a questo tipo di paradigma. È semplicemente più semplice, il gas è gas, arriva, si usa, si brucia, si, quello che fai. Ma per le fonti rinnovabili, eolico, che materiali servono? Ecco, qui magari voi potete esplicare. E questi materiali sono di facile reperimento, chi ce l'ha? Sì, esatto, perché bisogna secondo me un po' staccare il concetto del rinnovabile come cosa a sé stante che dà energia senza bisogno di niente. Essendo legati a degli apparati elettrici o elettromeccanici o comunque roba che necessita di essere costruita, manutenuta, quindi nel tempo modificata, eccetera, eccetera, che quindi ha un costo. Quindi questa roba in realtà è comunque legata a delle materie prime che comunque vengono comprate e scambiate con gli altri paesi. Sì, tra l'altro è appunto là, infatti questo è un nodo abbastanza centrale, perché effettivamente quello di cui parliamo oggi è anche, insomma, per cercare di scardinare alcune, come vengono definite spesso, narrazioni, comunque discorsi, obiettivamente di propaganda con cui si semplifica anche un po' certe questioni. E una è ovviamente il definire green una così un po' qualunque cosa, cioè come l'abbiamo detto spesso c'è un po' l'utilizzo di buzzword, per cui si usa una buzzword smart e tutto diventa bello, si usa la buzzword 4.0 e tutto diventa innovativo, si usa la buzzword green e tutto diventa pulito, sostenibile e meraviglioso. Quindi una l'hanno messa davanti anche al pass. Green 4.0 smart pass. Duplex, super. E quindi di base questa è come dire la narrazione che smontiamo anche abbastanza facilmente, che forse è la più facile da smontare. Tra l'altro su una delle industrie 4.0 è buffo, perché parlando con mia mamma che è un'insegnante mi ha raccontato un aneddoto molto divertente, che sono venute anni fa delle, diciamo, industrie a promuovere l'industria 4.0 e descrivevano questo apparato tecnico con un quale anche un dottore di 70 anni quasi disabile, cieco, poteva operare in una maniera pazzesca perché era attaccato a questi macchinari incredibili. E uno studente incredibilmente super sveglio, sveglissimo, ha alzato la mano e ha chiesto: ma invece che fare tutto sto casino non era meglio se operava uno di 30 anni? E ha senso, no? Abilista, il solito abilista. Beh, sì, e questo da un lato. L'altra questione è appunto il omettere, come dire, alcuni dettagli che sono dettagli, non proprio dettagli, che fanno sì che una tecnologia in realtà risulti poi a ben guardare tutt'altro che green e tutt'altro che sostenibile. Per esempio, come accennavi te prima, noi abbiamo preso oggi l'esempio dell'eolico, dell'energia eolica, ma la stessa discorso lo potremmo fare con il fotovoltaico o con altri tipi di energia. Non ci interessa in questo momento smontare la questione dell'eolico, nel senso non ci interessa dimostrare che l'eolico non è un tipo di energia interessante, non lo pensiamo neanche, probabilmente sicuramente lo è interessante, assolutamente. Il punto è l'approccio generale con cui poi si applica e si ricava soprattutto questo tipo di energia, per cui non è indifferente il come viene generata l'energia eolica, sì. Nel particolare l'aeroturbina, insomma tutti questi generatori d'aria che poi chiamiamo paleoliche, non è che stanno su così da sole, le calano dall'alto, le buttano lì in un prato fiorito e tutto funziona da solo. No, hanno bisogno di una serie di tecnologie, di anche materie, sì, poi a maggior ragione poi manutenzione e tutt'altro, però anche proprio come sono costruite, hanno in sé dei materiali che sono, li vogliamo chiamare green, cioè il calcestruzzo, il cemento armato, tonnellate di cemento armato, non so quanto di per sé sia proprio definibile green. Anche lì dipende chiaramente dal contesto, da come lo fai e come lo immagini. Spesso lo vedremo, e poi la critica, una delle critiche essenziali che facciamo oggi è che questo tipo di tecnologie sono state applicate e la direzione è quella di volerle applicare in maniera industriale all'interno di un'ottica di un sistema economico capitalistico ben preciso, per cui non ti interessa, cioè un po' questa storiellina del abbiamo capito che il petrolio è brutto e adesso cambiamo rotta e Greta è con noi e cambiamo rotta completamente e investiamo sulle rinnovabili, è una storiellina, perché nella realtà dei fatti è semplicemente un diverso modo per lucrare, per fare profitto. E semplicemente abbiamo cambiato, forse anche perché abbiamo visto che dall'altro lato non ci conveniva, c'aveva degli svantaggi. Ad esempio, per il carbone, una di quelle cose per cui abbiamo chiuso le centrali a carbone, poi ora forse volevano riaprire, ma lasciando perdere questo, non è in realtà tanto il discorso green, è che il carbone come livello di produzione d'energia non è una gran cosa, nel senso che costa abbastanza e non ci produci così tanta energia come ad esempio il gas, quindi è proprio sconveniente. Ma questo discorso si fa in realtà su quasi tutto, nel senso che tendenzialmente in realtà noi ci stiamo comportando come un essere che comunque sta finendo alcune risorse e si sta adoperando per sopravvivere con altre risorse. Il passaggio al green, almeno io personalmente lo vedo così, lo vedo come la fine di un'era, ma non perché siamo buoni e vogliamo smettere di inquinare, ma perché la maggior parte delle risorse che stiamo utilizzando, fino ad oggi abbiamo utilizzato per produrre energia, stanno finendo. E ne stiamo cercando altre, esatto. Ne vogliamo altre da finire. Esatto, esatto, e soprattutto di solito chi detiene il potere in questo momento di avere gas, di avere petrolio, eccetera, eccetera, sono i primi a averci sia gli interessi sia le capacità economiche di iniziare già a conquistare le nuove fonti di energie future. E quindi questo passaggio secondo me è importante, perché ci troveremo sempre in mano alle stesse persone che però cambiano diciamo il gettone da darci, nel senso una volta ci passano il gas, una volta ci passeranno l'elettricità prodotta con l'eolico, ma comunque la pala è loro, comunque loro decideranno dove, quando e perché metterne nuove. Sì, tra l'altro partendo proprio dall'inizio, ovvero dal almeno così viene pubblicizzato, drastico cambio di rotta in maniera di energia che l'Europa si è un po' data, no? Cioè con il documento uscito, la strategia nazionale di lungo periodo uscita all'inizio del 2021, che diceva, decretava il famoso traguardo del 2050, anno in cui entro il quale noi avremmo dovuto rimettere fondamentalmente le cose a posto, rimediare i danni che avevamo fatto e vedere di invertire un po' la rotta. Questa è come viene presentata sui giornali, praticamente quasi senza eccezione, cioè è come di fatto la leggiamo ovunque. nella strategia nazionale di lungo periodo, in realtà, oltre al parlare lungamente, largamente di nuove fonti energetiche e quindi sia quelle che ancora si sta cercando di capire come funzionano, ma anche quelle ormai che già si sa come funzionano, che però sono sfruttate troppo poco e ci dobbiamo lavorare di più. C'è tutta questa parte, ma c'è anche una grossa parte che prevede una riduzione della domanda di energia. Si parla che al 2050, in questo documento appunto ufficiale, si dovrebbe ridurre del 40% i consumi finali, che sono insomma un risultato enorme. Peccato che poi addirittura si citano alcune cose, si parla di calo della mobilità privata e dei consumi civili, si buttano lì, come dire, delle parole chiave che però sono buttate proprio lì. È evidente che però questa parte qua se la sono dimenticata un po' tutti, cioè se invece è evidente che da una parte c'è stata proprio una corsa all'oro, come vedremo appunto, al cercare nuovi materiali per poi appunto riempire i mari e il mondo di paleoliche, fotovoltaico, lo stesso lavorio non c'è stato su invece la parte della riduzione dei consumi, anzi tutt'altro, come abbiamo visto nelle altre puntate quando si parlava della crisi dei chip, ma quando si parlava anche dell'industria 4.0 per l'appunto, che abbiamo citato anche prima. In quel caso lì è evidente come c'è un aumento di richiesta energetica e un aumento ma esponenziale proprio di consumo di materie prime, perché è evidente, lo ripeteremo penso fino alla nausea, che se te riempi tutto di chip, poi ti puoi lamentare che il silicio finisce, cioè è evidente, se ti metti il silicio e i chip anche nei cappelli, poi è evidente che la richiesta di queste materie prime aumenterà tantissimo. Cioè secondo me la domanda critica che non è stata posta in questo momento ancora è: ok, ma rendiamoci conto di quante cose tendenzialmente inutili produciamo, perché appunto la maggior parte del costo, diciamo, del consumo energetico è comunque industriale e comunque è appunto legato a un'economia, a un concetto di sviluppo, a un concetto di produzione, di continua vendita, quindi di obsolescenza, di dover riprodurre le stesse cose 40 volte, che quindi vuol dire buttare via energia in continuazione. Quindi non è, secondo me, poi realmente un problema, al contrario di quanto ci fanno credere, sul privato, ma quello che dovremmo riuscire a tagliare è l'utilizzo di energia in maniera veramente stupida nel continuare a produrre e riprodurre stesse cose sulla larga scala. Sì, cioè per vendere essenzialmente. Effettivamente, poi riconducendoci un attimo su quello che è il 110, il green e poi il 4.0, l'industria, per esempio nel 110, anche soltanto vedere tutti i nuovi impianti fotovoltaici e quindi l'accumulo che c'è per ogni singola unità, progetto, cantiere, c'è poi bisogno di tutta una pletora di chip e di controlli, per esempio il BMS per controllare le batterie e quindi l'accumulo, e questo porta soltanto poi ad aumentare il consumo delle materie prime. È un po' parallela poi come viene effettivamente, ok, tutto green, ok, noi ci impegniamo a passare al rinnovabile, ma c'è tutta quella parte lì di delocalizzazione, si può dire, dell'inquinamento. Sì, sì. E poi quella idealizzazione la tecnologia si salverà. Sì, questo monte sempre, che appunto, cioè non c'è problemi, mettiamo la pala eolica e si è fatto. E io direi magari mettiamo un altro pezzo musicale, così poi ci riorganizziamo le idee e entriamo un po' nel vivo anche della questione dell'energia eolica, cosa c'è dentro, come si fanno i plinti, ho scoperto si dice plinti eolici, insomma, e quindi dove sta poi di fondo un po' la fregatura della faccenda. Thank you. sunshine. Sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Folks get down in the sunshine. Ooh, ooh, ooh. Sunshine. Folks get brown in the sunshine. Just bees and things and flowers. Just bees and things and flowers. Just bees and things and flowers. Just bees and things and flowers. My life, my life, my life, my life in the sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Folks get down in the sunshine. Sunshine. Folks get brown in the sunshine. Ritorniamo in regia Radio Wombat, ovviamente. Sunshine. Lovelace, parliamo oggi di energia sotto varie forme, che è energia problematica di base, sempre e comunque, e tecnologie vendute come pulite e green, che non lo sono per niente. E, come dicevamo, non ci interessa una critica all'energia eolica in sé, non vogliamo smontare di per sé il mito dell'energia eolica. Però è pur vero che anche tu... Cioè, davvero, beh, sarebbe sparare sulla Croce Rossa. Fra l'altro. Cioè, davvero, io sono rimasta un po' allibita, devo confessare. Cioè, sapevo che la situazione era disastrosa, non mi aspettavo così disastrosa. Perché sono rimasta un po' allibita vedendo che veramente c'è un fronte ambientalista compatto sulla difesa assolutamente acritica di questo tipo di tecnologie, perché facciamo tranquillamente i nomi: Legambiente, WWF, fondamentalmente quello che dicono è che il problema, cioè le critiche vengono bollate come estetiche, cioè tutto viene ridotto a un problema di estetica, come se io non voglio i grandi parchi eolici offshore perché sono brutti. Io non, tra l'altro, sono d'accordo, a me piacciono tantissimo, però appunto è una questione personale. Perché non sei un'aquila? L'aquila un po' meno. Però, cioè, come se, cioè, è veramente infantilizzante, no? Cioè, come se in fondo la critica di base fosse sempre quella un po' stupida, un po' così, un po' banale, un po' da poveretti che non sanno di cosa parlano e quindi la buttano sull'estetica. Quando in realtà c'è una critica che veramente di rado esce fuori, che è quella sul pezzo, cioè nel senso che proprio sta sulla questione ecologica. Mm-hmm. Per esempio, appunto, parliamo appunto proprio della questione del grande pompaggio che c'è stato di fondi statali e pubblici per incentivare l'uso delle rinnovabili, cosa che tutti e tutte non possiamo che approvare, che bello, che meraviglia. E quindi grandi giornalate, grandi proclami, fra l'altro notizia della settimana scorsa che poi è stata assolutamente sorpassata, è proprio tipo una valanga dalla guerra in Ucraina, però cronaca locale, Nardella fa lanciatissimo su, ma insomma eliminiamo questi lacci e lacciuoli delle leggi che ci impediscono, delle regolamenti che ci impediscono di ingranare la quarta sulle energie rinnovabili. Ci sono un sacco di burocrazie, anche qua, insomma, termine fin troppo abusato per fondamentalmente buttare tutto in vacca al discorso. Tanto chi è che difenderebbe la burocrazia? E quindi, c'è troppa burocrazia in Italia, troppi regolamenti sul paesaggio, troppi regolamenti sull'estetica, appunto, e quindi per colpa di questa cosa noi non riusciamo davvero a renderci indipendenti. Addirittura Nardella parla di questo, cioè se noi non siamo indipendenti, poi non si capisce noi chi. Cioè, noi italiani, noi toscani, noi fiorentini, ma noi chi? Parlano sempre a nome di tutti. Beh, noi unisce, sì. No? No, noi. No. Noi non siamo indipendenti per colpa di questi lacci e lacciuoli, appunto, che purtroppo ci Ma lui parlava della ruota panoramica. Anch'io ho pensato a quello. Ci pensavo anch'io all'atteggiamento, che secondo me lui ha sbagliato, ha confuso la ruota panoramica con le paleoliche. Ma quello dico anch'io, anche secondo me la paleolica andrebbe liberata, va fatta correre. Sì, bellissimo. Corri, paleolica, corri. Che però tipo ghigliottina la gente, secondo me. Vabbè. Ogni cosa ha i suoi pregi e i suoi difetti. E quindi se si parla in Europa, stando un po' più sul largo, di appunto enormi parchi eolici presentati per esempio al largo della Sardegna, ben 5 nell'ultimo periodo, oppure di un altro enorme parco eolico in Grecia e altri al largo delle isole Egadi, insomma c'è stata chiaramente una corsa all'oro, perché poi si parla di industrie, perché chiaramente, non l'abbiamo detto, lo davamo un po' per scontato, queste non sono impianti statali, sono impianti assolutamente e inderogabilmente aziendali, privati, e tutta questa parte viene delegata completamente ai privati, che quindi ovviamente ne faranno profitto, non solo per incentivarli, perché se non fossero abbastanza incentivati gli si dà una valanga di incentivi pubblici. E che fai, non li aiuti? Esatto, per farlo. Quindi a questo coro si è aggiunto appunto anche Nardella, che dice, fa queste dichiarazioni meravigliose supportate poi appunto da Legambiente, WWF, che dice sì, ma effettivamente ci sono troppi anche i comitati locali che si oppongono, lo fanno perché non capiscono che comunque sono state fatte addirittura delle paleoliche belle, esteticamente più belle, non so cosa intendono, verdi, non so bene cosa intendono, e quindi insomma sono dei retrogradi che non capiscono. Sono belle. Sono bellissime. Belline. Forse c'erano le fiamme, andavano più veloci in quel modo, più efficienti. Funziona, ah, bello, scientificamente provato. Fanno anche E quindi in particolare Nardella chiaramente non si esprime su, cioè lo dice in generale, ma è evidente che non si esprime sulla Sardegna, ma si esprime su uno dei grossi progetti che aspettava di essere approvato e che è stato peraltro recentemente, proprio ora a febbraio, approvato in regione, che è l'impianto, il mega impianto sul crinale dell'Appennino tra l'Emilia Romagna e il Mugello, quindi proprio a casa nostra, per usare il termine Genimbi. Effettivamente questo mega progetto, che è stato depositato ormai qualche anno fa da questo gruppo energetico AGSM, di proprietà del comune di Verona, fra l'altro, che siamo alla fantascienza, Che però il comune di Verona è proprietà di qualcun altro. Esiste. Purtroppo la GSM in realtà è appunto è un'azienda a tutti gli effetti. E insieme ad altri tantissimi progetti che sono stati anche approvati e alcuni già realizzati proprio in quell'area, nel Mugello e sui crinali, appunto deposita questo presso la Regione Toscana questo progetto di un impianto di energia eolica e si parla di 7 aerogeneratori a 3 pale di altezza rotore di 99 metri e che compreso la pala arrivano a misurare circa 150-160 metri, il tutto per una potenza nominale di 29,6 megawatt, ovvero milioni di watt. Ora, questa cosa insomma, è un qualcosa abbastanza, già di per sé fa capire la questione, però non è solo una questione di quanto sono alte e così, che sono brutte. La questione è che queste pale appunto non stanno su da sole, sono piloni di cemento sostanzialmente, hanno delle relative piazzole perché chiaramente non riescono a stare in piedi se no da sole. Sì, cioè poi bisogna ricordare una roba che uno non ci pensa, ma quando il vento batte sulle pale, che le pale girano, la pala comunque si comporta da freno, quindi in realtà fa propriamente proprio da vela. Ora voi dovete immaginare una roba alta 160 metri, che tipo di vela possa fare, comunque è un freno enorme e che si scarica sul palo e si deve scaricare a terra e sta roba deve stare in piedi, quindi tutta lo scavo di cemento, tutto il fissaggio diciamo della pala è grosso, insomma non è un impianto da poco. Sì, giusto per trovavo appunto dei dati che facevano un po' capire meglio di cosa si sta parlando, cioè proprio ci davano una dimensione, la mole Antonelliana di Torino è alta 167 metri, cioè stiamo parlando di una cosa alta come la mole di Torino, e lo scavo per far posto ad ogni plinto, quindi ad ogni pilone delle è grande quanto il battistero di Firenze, quindi no, per darsi un attimo le dimensioni. Ora, non è tanto la questione dell'impianto messo... Se, ovviamente se non sapete quanto è grande il battistero a Firenze, venite a Firenze, vedete il battistero. Infatti, io non è universale. So. No, anche perché io non so le dimensioni del battistero, però è grande, a vederlo. Vabbè, è grande. A occhio è grande. Sono 25,60 metri di larghezza. Ta-dan! Ecco, tanto. Te lo dico. E, insomma è una roba, però al di là insomma sul momento in cui stanno lì e sono già piantate belline, ma per costruire tutte queste cose su un crinale, quindi un crinale di sui 1000 metri e oltre, si tratta chiaramente anche poi di tutta la di costruire delle strade per portarcele sta roba, perché i camion, si parla di camion che portano tonnellate e tonnellate di cemento e quindi e di materiali, e quindi non è che chiaramente si fa la stradina di montagna che ti porta sul crinale. Attualmente ci sono dei sentieri, si sta parlando di crinali dove ci passa la GEA, la grande escursione appenninica, no? Molti di voi lo conosceranno, un percorso trekking che fa tutto l'Appennino, e cioè, si sta parlando di roba dove di base ci vai a piedi, non ci vai con un camion enorme. Esatto. Per farlo tu devi spianare fondamentalmente tutto quanto, costruire tutta una viabilità che attraversa comuni e comuni. Quindi non si parla soltanto dell'area, che comunque abbiamo visto abbastanza grande, dove poi sorgerà il plinto o i plinti. No, si tratta di tutta un'area enorme poi coinvolta. Chiunque fa trekking, ma soprattutto chi fa fuoristrada con macchine o moto e va, cioè diciamo uno dei posti dove di solito si riesce a accedere sempre abbastanza bene è appunto sotto gli impianti delle pale eoliche, perché ci sono strade ovviamente e devono essere anche manutenute, perché ovviamente devi continuamente manutenere questi impianti eolici, quindi le strade devono essere tenute, tante, grandi, e fare degli spiazzi enormi che collegano poi ogni singola pala, quindi ci sono proprio delle reti di sentieri gigantesche. Sentieri, chiamiamoli così, sentieri grandi, sì, certo. Fatto. Chissà se è prevista una compensazione, no? Quando tu costruisci questi grandi impianti, cioè è prevista una compensazione, come si chiama? Sì, sì, di, ecologica. Sì, sono, sì. Guarda, sono bellissime. Su tra l'altro, in Mugello, in termini di compensazione, già un po' ci girerebbe le palle, perché insomma ci ricordiamo tutti la TAV, come è andata a finire anche con le compensazioni. Esatto. Ecco, sì, sì, sì, sì, l'azienda proponente assolutamente promette le compensazioni. Ad esempio parla di segnaletica dei sentieri. Oh, grande. Sì, una nuova segnaletica dei sentieri. Soprattutto io direi, non solo i sentieri, ma anche le autostrade stanno costruendo, è bene, c'ha bene i segnali, sennò uno poi si perde. E poi, attenzione, dei luoghi di riposo per i turisti ecologici. Quindi riescono a farci pure gli alberghi, perché se dentro non fosse... le pale. Sì. Sono enormi. Esatto. Il turista ecologico poi è interessante. Bellissimo. Che proprio va a fare il turismo ecologico sotto green la pala. Green tourism. Sì. E un'altra cosa che fra l'altro c'è contenuta nel progetto è la questione a fine vita. Perché queste pale chiaramente durano X decine di anni, che comunque nella proprio ipotesi più ottimista si parla di 50 anni, ma mi pare abbastanza irrealistica. Viene già dichiarato che ci sarà una fine vita, ammesso che tra 20 anni questa tecnologia sarà ancora realistica, e non, probabilmente non lo sarà, ma ammettiamo che se ne fa di sta roba tra 50 anni? Loro ti dicono, ok, noi la smontiamo a spese nostre, perché tanto siamo sicuri che la GSM tra 50 anni ci sarà ancora, vabbè, la smontiamo, ma lasciamo, cioè smontano gli aerogeneratori, le pale, però i plinti di cemento rimangono nel terreno. Beh, come lo levi un battistero da sottoterra? Lui rimane lì, che comunque che fa tra l'altro piacere. Smontano l'unica roba e sono rivendibili. Perché comunque il rame e tutta la roba se la rivendono. Certo. Esatto. Di cosa è fatta la pala in sé? Vetroresina. Cioè, la pala spesso è una... Sì, sono mischie tra vetroresina e fibre, sì. Fibre, varie fibre, carbonio, vetroresina. Comunque sì, è roba estremamente rigida e leggera. Rigida poi tra virgolette, perché comunque è molto flessibile, certo. Però per quanto è lunga è comunque... E come lo smaltisci il vetro resina? Non ne ho idea, non penso si smaltisca tanto bene, perché le fibre di vetro sono tutte robe speciali, sono tutti scarti speciali, quindi non credo si smaltiscano tanto bene. Appunto. Si tritano, tra l'altro le fibre di vetro sono appunto materiali di scarto catalogabili speciali. E lì c'è anche la resina, che è ancora peggio. Esatto. Quindi c'è resina e fibra di vetro, anche se la maciulli e fai una polvere, poi ci fai? Non so. Forse altra fibra di vetro, non lo so. Sì, infatti si butta sotto il tappeto e ciao. Leggevo, tutto molto ecologico. E leggevo con una demolizione termica. Viene smaltita la resina. Bruciata. Come siete triviali, si chiama demolizione termica, senti come suona bene. E quindi non ci sono emissioni, no. Comunque demolizione termica la voglio usare anch'io. Quando sfasci, sì. Molto bello. Sto demolendo termicamente queste frasche. Sì, e quindi ecco, al di là dell'opera in sé, come dire, non viene mai, a me un po' mi stupisce che non venga mai ricordata la costruzione. Tra l'altro parlavamo di appunto solo il basamento per reggere il plinto, non il plinto in sé, ma il basamento è largo, c'ha un diametro di 20 metri ed è alto 3 metri, cioè un piano di una casa. Quindi già quello così, ma chiaramente il cemento non lo puoi fare, cioè non è che lo porti già fatto. Lo fa in quota. Deve arrivare alle betoniere, certo. Lo fa in quota e che lì c'è un altro problema, e anche lì in Mugello siamo un attimo sensibili, la questione idrogeologica, perché comunque per fare tutte queste tonnellate di cemento in quota hai bisogno di una quantità d'acqua enorme. E questo improvvisamente, cioè tutti gli ambientalisti la questione acqua se la dimenticano in questo caso, ma lì stiamo entrando in un territorio come quello appunto dei crinali dell'Appennino, che sono anche fragilissimi da un punto di vista anche proprio di tenuta idrogeologica, l'assesto proprio, e te li pigli, inizia a dragare acqua per costruire cemento per poi mettere sti plinti. Insomma, le preoccupazioni riguardo a sta roba, catalogarla come problemi estetici, veramente ti spiace. Che poi resta un altro problemino, che di solito connesso alla produttività, nel senso, di base le paleoliche, se vogliamo aumentare la produzione paleolica, deve essere più grossa. Quindi se vuoi effettivamente produrre energia, il concetto è che devi farle più grandi, sempre più grandi. Leggevo che la General Electric ha fatto questa pala che è 260 metri il pilone più 107 metri l'elica. La Madonna. Che è arrivando a 370 metri di impianto eolico. Che immaginate voi il plinto sotto quanto deve essere grande e quante tonnellate e tonnellate di cemento ci sono là sotto. Ma e dove la mettono questa... No, non lo so, ora questo è un progetto. È un, non so se già la stanno facendo, però leggevo che si chiama X12, che è questa grande paleolica della General Electric, che tra l'altro dovrebbe fare qualche megawatt, quindi roba, però insomma essenzialmente il concetto è sempre il solito, più energia più grande. Sì, e poi soprattutto il concetto è sempre il ammassare grandi impianti che fanno, producono energia, anziché magari delocalizzare e rendere, puntare all'autosufficienza dei singoli nuclei, no? Cioè quindi l'eolico per esempio domestico è fermo al palo sostanzialmente, e quello industriale invece fa passi da gigante, perché è evidente che nonostante siano poi accomunati, perché di fatto gli incentivi vengono praticamente messi come se fossero la stessa roba, però gli investimenti poi anche di ricerca è evidente come pendono, no? Cioè è evidente che sulla questione casalinga, come dire, non ci investe nessuno, nessuno ha intenzione davvero di investire sull'efficientamento del singolo condominio. No, si punta ai mega parchi eolici e offshore o onshore. Sì. Beh, questo secondo me, diciamo, per diversi può avere anche un senso. Ad esempio, leggevo loro che avevano questo problema su queste pali, che in generale, diciamo, l'eolico viaggia nell'ordine, se ti va bene, del 25% del tempo, che significa che o c'è troppo vento o c'è poco vento, e quello non va. Quindi fa tutta questa infrastruttura, ma poi alla fine del per il praticamente 75% del tempo è fermo. Sì, tutto ciò è bellissimo. Ora, la costruzione dell'eolico offshore, perché adesso parlavamo di quello sui crinali, facevamo un esempio sull'eolico sui crinali, viene risposto spesso, vabbè, ma noi si mette nel mare, e nel mare la bomba, anzi, non si vede neanche, cioè che questa cosa, no, cioè lontano dagli occhi, lontano dal cuore, è bellissimo. In realtà l'offshore, l'eolico offshore è estremamente costoso, tanto quanto, e anche perché là ci sono altri problemi legati alla salsedine, a tutta una serie di cose che rendono comunque anche questi impianti, appunto, come sopra, estremamente costosi da un punto di vista proprio ambientale. Sì, leggevo tra l'altro un'altra roba interessante, perché effettivamente non mi sono preparato niente, però sto leggendo tutto adesso. E una roba ganza è che non si possono mettere troppo vicine, non tanto perché si cozzano, ma perché si coprono. Quindi i flussi di vento si incominciano a disturbare se una pala è troppo vicina all'altra. E leggevo, su una pala da 2 megawatt, che comunque è abbastanza grande, gli servono 10-20 ettari di terra libera intorno, che sono tanti. Madonna. Entrando poi nella... Sì. Ci sono anche le pale eoliche ibride in tutto ciò, che non prendono energia solo dal vento, ma proprio per compensare quando non c'è il vento, utilizzano l'elettrolisi dell'acqua per produrre energia immagazzinandola nell'idrogeno. Dice questo articolo. E lì c'è la questione dell'idrogeno. Mai sentite, comunque, nel mondo reale. È un articolo che sto leggendo che è pro. Okay. Assolutamente, certo. Pro. Tra le cose pro dice è anti-uragano. Resiste agli uragani. Ma anche perché poi quell'idrogeno che hai fatto, dove lo immagazzini? Cioè non deve essere tanto facile, che l'idrogeno, appunto, il problema grosso è l'immagazzinamento. E lo produci, infatti. Ma poi... Tra l'altro, per produrre l'elettrolisi consumi un botto di elettricità, per cui non vedo la grande utilità. Il profitto. Sì, cioè potevi usare l'elettricità, perché hai fatto l'idrogeno che poi dopo ci fai l'elettricità. Sì, veramente retrogrado. Guarda. È la Ion Energia che ci dice che è buono l'eolico, investiteci. Sì, ma infatti è interessante come davvero si trovano veramente poche voci contrarie, ma che poi ora non per dividere in buoni e cattivi, però nel senso quantomeno critiche con qualche insomma che... È chiaro che non c'è una ciminiera che butta fuori, no, lo schifo, polveri sottili sì, come invece una un centrale va a gas o a carbone, però come stiamo dicendo ci sono anche altri punti di vista da non dimenticare, quantomeno da dire, ecco. Sì, da mettere nella lista dei costi, ecco. Esatto. Cioè, non pensiamo che questo a livello ambientale sia gratis. E tra l'altro, ancora non siamo entrati, e ci entriamo adesso, magari prima di una piccola pausa musicale, nella questione altre materie prime, perché ora abbiamo parlato essenzialmente, a parte l'incursione della vetroresina, però... abbiamo parlato della costruzione, no? Cioè quindi di come poi questa tecnologia viene costruita, di tutti i problemi annessi. Ma all'interno delle turbine eoliche, perché chiaramente son robe che non è che vanno da sole, non è che sono meccaniche, cioè hanno tutta una tecnologia dietro che ha dei componenti, insomma, un bel po' di componenti, tra cui... si parla di centinaia e centinaia di tonnellate di materiale per ogni turbina eolica, e tra i vari materiali c'è l'acciaio, c'è il rame, ci sono diversi minerali e diverse terre rare, il litio in particolare, il nickel, il cobalto, il manganese, la grafite, che sono tutte, come si è detto altre volte, che sono poi materiali che vengono sono fondamentali per le batterie. Senza entrare nella questione di dove poi le mettiamo le batterie, perché si entra in un altro ginepraio. No, ricordando che tutti questi materiali di solito le estraggono in paesi ovviamente più poveri, dove lo sfruttamento del lavoro eccetera eccetera è all'ordine del giorno. E poi per estrarle tu per forza devasti tutto, sì. Esatto. Per forza. Sì. Esatto. Sì, non hai alternative. E per lavorarlo è uguale, perché poi non è che lo estrai, tiri fuori il nickel, è pronto. Ah, guarda, c'ho già il nickel. Cioè, è tutta una lavorazione con componenti chimici, robe schifosissime. In Serbia hanno bloccato proprio la costruzione di una grande miniera di litio, che ce n'hanno tanto là, proprio perché avrebbero devastato una quantità enorme di terreno che invece è agricolo attualmente, che avrebbe devastato tutto. Sono riusciti le lotte, come si dice, ambientaliste, a bloccarlo per ora, perché chissà poi quando sarà più stringente la questione. Comunque leggevo adesso su quel discorso, si diceva per lo smaltimento del che effettivamente dice è di difficile smaltimento la vetroresina. Sì, la soluzione è di usarla come rinforzo per il cemento, quindi essenzialmente la mettono nel cemento e dai, come non lo so, come quando la mafia c'ha bisogno di smaltire, esatto, qualche cioè quei è piloni. Infinito. Sì, esatto. Lo sbriscioli uno e ne fai un altro. Esatto, sì, sì, sì. Guarda, sì, i piloni sì, sono veramente comodi. Sono comodi. Cioè, come si flette lo scheletro umano là sì, dentro. Sì. Ciao. Bellissimo. E altro materiale molto importante, fondamentale per l'eolico in particolare, è il neodimio. Un materiale scoperto nel 1885 che serve per produrre supermagneti. E quindi poi attraverso questo appunto si creano questi generatori a magneti permanenti, che sono sono di base il nocciolo del funzionamento delle turbine eoliche. Io direi mettiamo un altro pezzo musicale e poi arriviamo all'ultima parte, con la quale vi salutiamo e finiamo questa puntata dedicata alle energie. Ma io non mi sono preparato davvero il pezzo musicale, perché c'avevo ancora quello vecchio. Nel frattempo vi do riguardo la pala eolica. Grazie, vieni la X12, sono 12 megawatt, è al porto di Rotterdam, l'hanno installata nel 2019, il prototipo. Ah, okay. Quindi cioè non è proprio, cioè c'è. Sì. Cioè, un po' forte, cioè. Progettino piccolo. Sì. E quanto produce? Non lo dici. 12 megawatt. Mm-hmm. 12 megawatt. Sono tanti. Sono tanti tanti. Io non ho mai capito, cioè, neanche come singola... li contano, cioè, ma continuativi? No, assolutamente, il picco. Penso siano di picco. Sì, di solito sulle robe elettriche è quello su cui ti fregano tendenzialmente sempre, è sempre quasi tutto di picco. Ma cosa vuol dire quando appunto Leon Energia, quello che è, mi dice che da 20 megawatt di potenza si possono produrre 40 gigawatt. Gigawatt ora. Ah, gigawatt ora, ok. Sì. Ah, ok. Quindi da 20 megawatt si possono produrre 40 gigawattora, dice, per soddisfare il fabbisogno di 13-15.000 famiglie. Ma aspetta, su che articolo? Sull'aolico. No, no, è sempre questa Ion che stavo guardando. Che secondo me è un po' strano. Che vuole vendere le paleoliche. Cioè, esatto, sì, perché mi sa che sta già infrangendo vari principi della fisica. Non sì. capivo. Però, non so. Un po' di parkour. Sì, sì, sì, sì. Leggevo, ad esempio, anche nei vari sponsor dell'impianto del megaparco che vogliono fare qui in Mugello, che si pubblicizzava dicendo, riuscire a soddisfare il bisogno di 64.000 persone e in Mugello ce ne sono 100.000. Ora a me faceva ridere il fatto, intanto, ma pensi che io davvero sono deficiente che credo che quell'energia lì la mandi solo ai mugellani? Sì, cioè, dice, sì, sì, no, l'abbiamo prodotta qui a chilometro zero e si utilizzano il resto al buio. E poi cosa vuol dire? Cioè, cosa stai contando? Cioè, i consumi, che consumi? Esatto, cioè, vabbè. Ma avevamo detto un po' di musica, fermiamoci quindi per un attimo, per un po' di pausa. God, if I give up thinking about the future, thought you had enough thinking about the past, 'cause I don't wanna wake up in the morning without you. Talk of all our dreams, all the things we'll do. You said, oh, lift your body up, naturally we fall. Give your body love, I won't let you go. Oh, eccoci qua, Radio Wombat, Lovelace, ovviamente come ogni giovedì su due, si dice? Non è sì, in italiano. Sì, adesso sì, si dice. Escluse le demolizioni termiche. Infatti. E, dicevamo, com'è fatta quindi dentro una pala eolica? Come funziona? Allora, perché in realtà, appunto, un'altra delle robe che dicevo prima sulla manutenzione, perché non sono così semplici, nel senso che la pala eolica, vabbè, esternamente si vede, c'ha quelle 2, 4, 3 pale che girano, e poi internamente vanno a un motore. Ora, però, non c'è un palo dritto che va al generatore che produce elettricità. Perché? Perché i generatori tendenzialmente per funzionare bene devono funzionare a velocità più o meno costante, e non solo, devono girare abbastanza velocemente. Se invece vedete come gira una pala eolica, di solito gira abbastanza piano. Quindi c'è un moltiplicatore, un cambio, diciamo, che moltiplica i giri di velocità dell'albero di trasmissione, in modo da aumentare la velocità dell'albero di trasmissione che è connesso al generatore. E questa roba, ovviamente, vi potete immaginare, su una roba che produce megawatt, significa che il generatore da una parte, diciamo, cioè il generatore è rallentato, cioè è frenato, perché produrre energia per un generatore significa di base produrre lavoro negativo, quindi lui tende a frenarsi. Dall'altra parte abbiamo la pala che invece tende a spingere, quindi tutti gli organi meccanici nel mezzo sono estremamente sollecitati, ma parecchio. Su, appunto, roba così enorme sono veramente tanti chili e chili e chili di forza. Questa roba fa sì che di base tutto l'olio, perché questa roba deve essere a bagno d'olio, tutto l'olio tende tra l'altro a degradarsi estremamente veloce, per cui c'è una manutenzione continua, tendono a rompere, tendono a consumare e distruggere olio. E secondariamente la pala eolica non può girare né troppo veloce né troppo piano, per cui prima di tutto le eliche sono a passo variabile, cioè si possono orientare in modo da tagliare di più o offrire più superficie al vento, in modo da girare, diciamo, più velocemente o più lentamente. Secondo, siccome tutta questa roba ha un'inerzia pazzesca, c'è anche un freno, quindi ci sono anche dei freni che servono a rallentare la pala eolica, e questa roba tra l'altro crea un enorme impatto anche sul, appunto, quell'effetto vela che dicevamo, per cui tutto il palo viene spinto indietro, tutta la pala viene spinta indietro e tutta la struttura viene sollecitata. Quindi questo più o meno è come funziona dentro. Arrivando invece ai costi delle materie prime, perché dicevamo, no, ci sono molte materie prime, sono delle materie prime insomma problematiche, l'abbiamo visto, perché comunque questo ormai in realtà, ecco, è diventato divulgata comune, cioè si dice che effettivamente se ne sono accorti che insomma l'estrattivismo ha dei problemi fondamentali da un punto di vista ambientale, ma anche sociale, politico, geopolitico, insomma lo vediamo. Tante guerre sono state fatte in Africa, per esempio, in vari stati dell'Africa, per il controllo dell'estrazione di queste materie prime, insomma questo ormai si sa. E però, ne chiediamo e ne abbiamo bisogno sempre di più, l'abbiamo visto. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia, l'IEA, quindi insomma direi uno dei massimi organismi autorevoli in tema, se gli accordi di Parigi verranno rispettati, nelle prossime 2 decadi si avrà una crescita del 40% della domanda di rame e di elementi di terre rare e del 60-70% della domanda di cobalto e 90% di quella di litio, perché come abbiamo visto il litio è un elemento chiave soprattutto nelle batterie. Le batterie ormai devono stare dappertutto, soprattutto in questo tipo di impianti, e devono essere grandi, perché insomma non è che proprio c'è la batteria la mini stilo. E chiaramente quindi insomma senza entrare nella questione del, appunto, dello smaltimento, però già soltanto come domanda, insomma, se in 20 anni si aumenta del 90% la domanda di litio, cioè abbiamo uno scenario di fronte, come dire, abbastanza apocalittico, altro che catastrofismo. E da quando quindi si è iniziato a parlare di transizione energetica, i prezzi delle materie prime necessarie alla costruzione degli impianti è aumentata vertiginosamente. Si diceva prima fuori dai microfoni, è interessante come ti dicano che fino a ora, fino a poco tempo fa, il costo della produzione dell'energia, come si dice, green, alternativa, rinnovabile, ecco come si dice, rinnovabile, questi costi erano bassissimi. Questo è proprio, cioè, scritto, sta scritto dovunque. Finora costava pochissimo, adesso inizia a non essere proprio vero, cioè iniziano i costi a essere aumentati. Ora, si diceva prima fuori dai microfoni, ma perché prima costava meno? Non è che prima costava meno, in parte anche sì volendo, ma perché c'erano degli incentivi, c'erano grossi incentivi statali che facevano sì che fondamentalmente ti costasse poco, in fin dei conti, produrre energia rinnovabile. Adesso continuano ad esserci questi incentivi, per certi versi sono anche aumentati, ma i prezzi delle materie prime sono molto aumentati. E sta anche riducendo i margini operativi, come dire, quindi il guadagno, il profitto, dei principali produttori di turbine eoliche, nel particolare, rimanendo sull'esempio di oggi. E questo perché? Perché, come abbiamo un po' accennato, questi elementi, queste materie prime fondamentali per questo tipo di tecnologie sono in determinati paesi che, se forse prima, a causa di certi equilibri internazionali di base, era più facile sfruttare, adesso hanno alzato un po' la testa. Quindi, per una ragione o per un'altra, adesso non abbiamo proprio il tempo per entrare nei singoli casi, però di fatto, per una ragione o per un'altra, i singoli paesi si sono un po' accorti del tesoro che avevano fra le mani, probabilmente lo sapevano anche prima, ma insomma adesso riescono a farci un po' più di soldi, insomma, a dire sì, vabbè, però basta che venite qua e fate come vi pare, quantomeno alziamo le commissioni. Portando quindi un po' a farla diventare una leva anche per fare altre richieste, immagino, anche una leva sia commerciale che politica a quel punto. Esatto, e quindi per esempio nel caso del litio, del cobalto e delle terre rare, per esempio i primi tre produttori mondiali sono l'Australia, la Cina e il Congo, che da soli controllano più dei tre quarti della produzione globale. Il Congo e la Cina nel 2019 hanno estratto rispettivamente circa il 70 e il 60% di tutto il cobalto e degli elementi delle terre rare prodotti in tutto il mondo. E, prima accennavi testing, poi alla questione della lavorazione, che è diversa dall'estrazione, spesso non viene fatta nello stesso paese. Il 35% dei minerali da cui si estrae il nickel, il 50-70% di quelli da cui si estrae il litio e il cobalto, e quasi il 90% di quelli da cui si estraggono gli elementi delle terre rare viene invece lavorato e raffinato in Cina. Quindi è chiaro che il Congo e la Cina, per esempio, diventano centrali a livello geopolitico. E poi c'è anche un altro fattore, che non è tanto solo una questione appunto di prezzi che vengono fatti, che riguarda la disponibilità delle quantità che vengono richieste, perché è chiaro che stiamo parlando di risorse finite, perché se abbiamo scoperto, siamo cascati adesso dal pero, abbiamo scoperto che il petrolio non è infinito, non è che invece il nickel ce l'abbiamo per sempre. E per esempio, secondo sempre una stima dell'IEA, la fornitura derivante dalle miniere esistenti e anche dalle nuove in via di attivazione potrà soddisfare al 2030 solo la metà del fabbisogno previsto di litio e cobalto e l'80% del fabbisogno di rame. Ma abbiamo visto che questi fabbisogni ad adesso già sappiamo che cresceranno tantissimo. Chissà, tra 10 anni potrebbero già questi fabbisogni essere completamente sbarellati e moltiplicati, perché dobbiamo avere gli smartphone sempre più fighi. e però non è che le miniere invece aumentano con la stessa velocità. Io qua mi arrivava un messaggio direttamente da Deng Xiaoping. Ah, ti ha chiamato? Sì, mi arrivava la dichiarazione che ha fatto all'inizio degli anni 90. Lui mi ha scritto: guarda, all'inizio degli anni 90, Deng Xiaoping, cioè che penso sia il presidente della Cina, sì, lo immagino, ha detto: le terre rare sono per la Cina quello che per il petrolio è per il Medio Oriente. Mi sono impappinato, ma quello era il senso. L'abbiamo capito. Basta, volevo dire solo questo. Ah, ho scritto, ha salutato a casa. Ho letto comunque solo questa riga. È un SMS, d'altra parte non c'aveva sì, tante esatto, parole. Esatto. Ah, sì. E, c'è un indice, fra l'altro, che si chiama proprio Resource Nationalism Index, RNI, che tiene traccia degli incidenti di espropriazione diretta, così vengono chiamati, di nazionalizzazione, ovvero c'è una sorta di classifica dei paesi che è più facile colonizzare e quelli che invece hanno un po' alzato la cresta. E, perché appunto dicevamo, insomma, qualcuno si è accorto che insomma potevano sfruttare anche loro le proprie preziose risorse. E si parla, dice che 66, questo indice, 66 paesi su 198, quindi una buona percentuale, più o meno il 33% di questi paesi ha nel 2017, quindi figuriamoci ora, hanno rafforzato la presa sulla ricchezza delle proprie risorse. Insomma, diciamo che non è proprio un problemino da poco, in diversi. Quindi ora sarebbe lunghissimo farvi tutto l'excursus di quello che sta succedendo nei vari paesi. In America Latina non mi viene da dirlo problema, perché in realtà per l'America Latina questa cosa è una cosa buona, riuscire a farsi colonizzare un po' di meno e trarre un po' più di profitto dalle proprie risorse. Poi anche lì, senza vederla in maniera buonista e ingenua, poi è chiaro che non è che invece in America Latina sono tutti bravi e buoni e i governi sono gentili, cioè poi in realtà pure lì i soldi vanno in mano sempre all'apice della piramide, però insomma avrebbe anche un senso, insomma, che non ci guadagnasse sempre solo gli Stati Uniti dalle risorse dell'estrattivismo in America Latina. Stessa cosa succede poi per esempio anche in Cile si sta parlando di royalty fino al 75% sulle vendite di rame. Scusami, sono entrato un po' a piede. Perché avevo ricercato l'articolo in Bolivia, sapevo appunto che c'era il più grande lago salato, tra l'altro in quota, del mondo, una cosa spettacolosa, che è uno dei patrimoni più belli del mondo, che ovviamente è uno dei posti super frequentati, la gente si va a farsi le foto in realtà per varie ragioni, tra l'altro molto divertenti. Però quello lì, come spesso succede sugli ex laghi salati, sono i miglior posti dove si trova il litio. Quindi, ad esempio, questo potrebbe essere una delle più grandi cave di litio a cielo aperto, però allo stesso tempo è uno dei posti più belli del mondo. Quindi per ora la Bolivia, da quello che so, ha retto, nel senso che non l'ha trasformato e non l'ha venduto, però appunto continuando a salire pezzi, continuando magari una linea che può andare sempre più verso la povertà, magari a un certo punto spalle al muro. Lo vendi al miglior acquirente, che poi trivella tutto, distrugge tutto, scava ogni cosa, e questo è. Eh sì, e quindi ci sono, appunto, quando poi riesci a fare questa operazione, a volte le miniere sono in mano allo Stato, a volte, molto spesso, nella maggior parte dei casi, sono in mano ad aziende generalmente di altri paesi, ci sono dei contratti. Tu provi a ricontrattare, quindi di base, quindi appunto in America Latina, ma anche in Africa, in vari paesi, per varie ragioni, ognuno per ragioni diverse, ci sono state ultimamente, negli ultimi proprio 2 anni magari, grosse, importanti ricontrattazioni dei prezzi, per cui le royalties che il paese si riserva, insomma, cresce ma in maniera sostanziosa. Quindi in realtà anche lì la questione, le energie rinnovabili sono vantaggiose, sono vantaggiose anche per le aziende perché lo Stato le incentiva, inizia a scricchiolare, perché in realtà sì, sono vantaggiose, ma se poi le materie prime ti costano molto di più, inizia a non convenirti più. Per esempio la Siemens Gamesa, non so assolutamente come si legge, che è un'azienda molto importante che appunto opera in questo settore dell'energia rinnovabile, ha dichiarato di aver subito un calo di oltre il 20% delle entrate nel primo trimestre del 2021. E la quotazione del titolo in borsa è sceso di circa il 55%, insomma si tratta di numeri abbastanza importanti e secondo loro tutto ciò sarebbe una conseguenza diretta dell'aumento dei costi delle materie prime, e che ha comportato ovviamente, come dicevamo in apertura, ritocchi ai listini per compensare, quindi poi in realtà poi si sa dove poi questi costi vengono ripresi, però insomma ci sono. Sì, tra l'altro leggevo che la Cina era l'unico paese al mondo, più o meno, almeno negli anni, che continuava a offrire terre rare a dei prezzi accettabili, nel senso che gli altri costavano molto di più. Questo perché la Cina, appunto, dalle dichiarazioni del mio amico precedentemente, sì. Si capisce, allora hanno investito su queste cose fin dagli anni 90. Quindi hanno delle infrastrutture per fare lavorazioni estremamente avanzate rispetto agli altri, alla concorrenza, per cui vendevano terre rare a prezzi bassissimi, ma sia per costi ambientali, sia perché loro stessi hanno cominciato a usarne tantissimo, hanno ridotto tantissimo l'export. E quindi questo di base ha alzato tantissimo il prezzo anche agli altri acquirenti. Sì, infatti se a un certo punto veniva venduto un po' come un problema correlato al Covid e che quindi insomma poi in fondo quando una volta che rientra la pandemia rientra anche questo, in realtà si è visto che assolutamente no, e sono le stesse, appunto, gli stessi operatori di settore che ti dicono no, non ci aspettiamo minimamente che questi costi rientrino, e anzi ci aspettiamo che aumenteranno in maniera vertiginosa. D'altra parte, come dicevamo in apertura, quando aumenta la domanda aumenta il costo, e quindi chiaramente il giochino andrà così. Io non so, avete altre cose da aggiungere? Abbiamo fatto una puntata abbastanza fiume, ma le cose da dire effettivamente erano tantissime, e tra l'altro non so come dire, ci sentiamo anche abbastanza, penso, responsabilizzati del fatto che non le dico nessuno, non dico proprio nessuno, ma insomma è veramente difficile trovare questo tipo di informazioni. Sì, di base sono o robe estremamente tecniche o comunque sono noiose, diciamo, no? Se preferisce parlare magari, non so, dell'estetica, le paleoliche estetiche, brutte. Calcio, non so. No, aggiungerei che è venuto fuori quando parlavamo della costruzione delle pale appunto sui crinali, appunto della necessità di tanta acqua. L'acqua è un'altra delle energie primarie che provocano conflitti in giro per il mondo. Appunto in Uzbekistan e Kazakistan se le stanno dando, per esempio, per quello. In Africa, appunto, le nuove dighe sul lungo il Nilo stanno creando nuovi conflitti fra i vari paesi. Quindi anche l'acqua, oltre di per sé le terre rare, le varie risorse che troviamo nel terreno, e poi gas e petrolio, fanno parte di questa guerra alla ricerca dell'energia. Aggiungerei, che probabilmente ne parlerete poi, che questa ultima corsa allo spazio degli ultimi anni probabilmente rientra anche in questo, nel tentativo estremo di cercare nuove risorse da sfruttare al di fuori del nostro pianeta, e qui sono finite, magari. Si sa che le asteroidi o questa roba qua sono pieni. Neocolonialismo spaziale. Il neocolonialismo spaziale, che mi foga perché è fuori, tanto mi piace, va bene, che tendenzialmente è difficile che vada a colpire qualcuno per ora, è dura, perché se vi guardate la serie, purtroppo Amazon, però quella lì, The Expanse, ci racconta anche proprio quello, cioè che l'uomo alla fine sfrutta qui e poi sfrutterà anche tanto nel resto dell'universo. Il concetto è quello, secondo me è fuffa, Io lo dico. Che cosa? La, cioè, la corsa? Cioè, sì, c'è troppi costi. Secondo me a oggi è veramente... Manca la tecnologia. Sì. Come ci dice Qingxin Liu, però... il cinese, non so se l'avete letto, ve lo consiglio. No. Scrive di fantascienza e delinea in questi tre suoi libri, comunque delinea la storia dell'umanità lunga per un migliaio di anni, diciamo a partire più o meno dall'inizio del Novecento, dalla metà del Novecento, diciamo un ipotetico metà del Novecento, e poi va nel futuro. E il plot è che gli umani scoprono che gli extraterrestri ci sono e stanno venendo a prenderci perché hanno bisogno delle nostre risorse. Come reagisce l'umanità in questa invasione che si sa che arriverà, però sono lontani e quindi arriveranno fra 600 anni. Come reagisce l'umanità in questo? E in tutto ciò c'è il punto chiave, è la tecnologia. Cioè l'uomo cerca di creare la nuova tecnologia. Però nel libro gli alieni sono furbi e sono riusciti a impedirci di studiare la fisica. Anzi, non di studiare la fisica, ma di provare, no? Il metodo scientifico è che tu deve essere una cosa, come si dice? Empirica. Empirica, esatto. Ci levano l'empiricità dello studio fisico. Bello. E quindi l'umanità è difficile che riesca, però in questi libri la cosa interessante è l'umanità va avanti a balzi tecnologici, non è una cosa, no, che un'onda sinuosa. Sì, però secondo me il problema dobbiamo sperare nel balzo, no, è che cioè siamo più vicini alla catastrofe ambientale che al balzo tecnologico, per cui secondo me dovremmo iniziare tra un pochino a preoccuparci più in casa nostra dell'andare fuori. Vabbè, o almeno di avere le tecnologie per andare fuori. Sono d'accordo. Siamo usciti un attimo. No, ci hai dato però... lanciati nello spazio. Collegamento alla prossima puntata. Ci hai dato un ottimo assist. Perché poi, tra l'altro, oltre alle appunto esplorazioni nello spazio, prossimamente andremo anche negli abissi a guardare tutto bellissimo. Quel terrificante mondo del deep sea mining, quindi dell'estrattivismo nei fondali oceanici. Una roba raccapricciante di cui parleremo prossimamente. Con grandi ospiti, io direi, buon Tuco, secondo me te devi venire un balenottero azzurro. Sì. Esatto, era quello l'ospite. Tuco, ci devi assolutamente tornare a trovare, ti vogliamo con noi sempre a Lovelace. Quando posso verrò assolutamente, comunque di base vi ascolto. Bene. Mi sembra giusto. E quindi niente, direi, dopo questa puntata a fiume, direi che vi salutiamo, ci risentiamo giovedì, no, non il prossimo, tra due, e quindi alla prossima e buona serata a tutti e tutte. Ciao! Wombat! Bella, ciao. Bella! Didn't wanna hide.